anti tutta. Hola, attenzione, binario 10, cambio. Hola, attenzione, binario 10, cambio. Attenzione, binario 10, cambio. Hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chieste. Doppio room. Oh, la buonani. Mami, proprio l'altro giorno ho chiesto di te che non ti avevo più sentito. Eh già, mi stavo dedicando ad altro. Ciao, dopo tanto. Oggi che era bella giornata, ho attaccato lo strumento professionale, stavo controllando le stazionarie per vedere se l'antenna era a puntino, ed è un bijou, c'ha 1,4 massimo, tra 1,3 e 1,4 sull'80, 1,1 sul 40 sotto, qua non è proprio qua, il centrobanda ce l'ha sul canale 12, c'era qualcun altro sul canale già, io sono entrato a gamba tesa, No, non c'era nessuno, io devo aspettare, devo andare a prendere la mia ragazza, però... Siccome ha avuto un contrattempo al lavoro, mi ha detto di andare alle 5 e mezza, quindi non ero uscito da casa, cosa faccio? E me ne sono venuto qui al quadrato a modulare a vedere se c'era qualcuno. Guardi, ero sull'1, sul 40, sul 19, stavo provando i modi di emissione, un po' si uscivano. Praticamente avevo certi apparecchi che erano fermi da oltre un anno. Credo, oltre un anno. Questo per esempio è il presidente McKinley. Il microfono è quello di serie, sto parlando come parlo io normale, volume normale, un po' leggermente di taglio al mic. Va benissimo, sembra amplificata la voce, molto presente. Allora, io sono anche qua al quadrato, quindi ti sento divinamente. Io ho cambiato l'antenna, non ce l'ho più la Game Master. Cambiata, ma a te ti si era spezzata a metà una volta, ma poi come mai l'hai cambiata? Per volontà o perché si era rotta tipo col vento? Allora, la prima volta l'ho aggiustata e dove l'ho aggiustata è rimasta intatta, si è rotta da un'altra parte, quindi mi sono rotto anche io le scatole e mi sono comprato la Super Lem, ed è un'antenna che è veramente fatta bene, c'ha anche l'incastro che va nel tubo che è tutto in acciaio. Sì già, io vabbè, in scelta personale ho sempre prediletto le antenne in alluminio, cioè non mi ispirano queste fibra o quello che è. E quindi sei stato sfortunato con quell'antenna lì. Tu sei molto esposto poi al vento, molto molto esposto. Dove ti si è rotta la base per caso? No, la punta proprio terminale, dove c'è l'ultimo stilo. Un anno mi ha durato, in un anno si è rotta due volte, alla fine Marco l'ho data a un amico che ci aveva i pezzi che mi si sono rotti a me, perché ha buscato questa antenna, questa Game Master che aveva avuto problemi alla bobina, l'avevano regalata, ci aveva i pezzi, gliel'ho regalata e se l'ha piazzata lui, se l'ha messa apposta e se la deve piazzare. Tappa. Vabbè, io avevo sentito Natalino tempo fa e si lamentava che la sua antenna quando pioveva andava forte di stazionarie, salivano abbastanza, non so se 2,5. Io questa invece quando la piazzai avevo isolato meticolosamente tutte le giunture dove c'è lo stubo in punta tra filo e stilo, addirittura li avevo isolato dove c'è il pezzo di alluminio e dove inizia quel copribobina di plastica, perché l'acqua se entra da lì, perché c'è un gommino interno, un o-ring, che poi parte però col tempo, si secca, e lì l'ho isolato, avevo isolato anche il PL, proprio stagnato, infatti questa è come il giorno che l'ho piazzata a livello di stazionarie. È un bijou, i radiali ci sono miracolosamente tutti già, ti ricordi cosa dicevamo, che è sottile, fina, magari non regge, perché io sono esposto al maestrale comunque, cioè Monte Oro è l'unico che può bloccare, ma Monte Oro ha 5 km di distanza, cioè l'antenna è molto esposta al maestrale. Nonostante tutto, già questa a marzo fa, o a maggio fa 8 anni, sembra piazzata ieri, sono passati quasi 8 anni, incredibile qua, un'antenna da 2 lire. Io l'ho avuta quella lì, praticamente a me me l'avevano regalata, solo che smontandola la persona che me l'ha data non si è reso conto che era di quelle, non si ricordava che era di quelle telescopi che ha cercato di togliere fuori il radiale, non ne usciva, l'ha forzato e praticamente ha rovinato il radiale e mi dava stazionare, l'ho anche piazzata ma non andava bene, l'ho tolta subito. Eia. È tutto così, dai. Adesso poi qua faranno dei lavori grossi nel palazzo, quindi non so se va smantellata anche l'antenna. Ma era giusto prevedere, cioè non l'efficienza, se le stazionarie erano a posto, ho messo l'AIVA è lo stereo, il DAIVA era fermo da quel dì, vedo le stazionarie, le ho misurate col fondo scala, cioè con 20 watt ho misurato le stazionarie. E ripeto che qua non ce n'è, sull'80 sì, sono tra 1,3 e 1,4 mi pare, con 20 watt, 1,35 dai, quindi accettabilissime. Sì, a voglia. No, io con quell'antenna lì ti posso dire dove vado, non aumenta più di 1,1, è 1 oppure 1,1 al massimo, anche con lineare attaccato. Sì, ma infatti al limite se ci sono gli estremi della banda, comunque è una super antenna, hai fatto benissimo a prendere quell'antenna lì, la Super Lem avevi detto, sì, me la ricordo dai tempi di... Chi ce l'aveva la Super Lem? Mi pare che abbia un bel radiale, o sto sbagliando io? No, ne ha 3 di radiali, come la Mantova 1, praticamente... ce l'aveva, sono satellite con l'antenna lì. Ma 4, beh almeno 4, non 3, 3 ce l'ha la mia. E il 4, no 3 è quella che ci avevo prima, scusa, 4 ne ha sì. Ah no, ho capito, mi stavo confondendo con la Super 16, tu te la ricordi la Lem Super 16, mi pare avesse ben 16 radiali, un po' impegnativi come... Però vabbè, comunque sì, antenna in alluminio mi sa che vai sul sicuro, tu poi hai tiranti anche, cioè hai la possibilità di tirantare, quindi comunque è fatto non bene ma benissimo mettere un'antenna di quel tipo. Io ero già, guarda, io volevo prendere quella della Grazioli, poi mi hanno consigliato quella e mi hanno detto che andava bene, per dire cosa ce l'ha, però deve essere il vento, non li tira come tira a casa. Io ce l'ho di fronte al mare, Marco, tu a te magari ti arriva il vento, ma non è diretto come da me, perché tu c'hai palazzi, c'hai salita, c'è tutto quanto, invece io, cavolo, proprio la voce a mare, gioco. Sì, io magari non ho palazzi vicini, a ovest, dove soffia il maestral, nord-ovest, però... tu sei proprio oce a mare, sì, quindi ti arriva una botta allucinante lì. E poi vabbè, mi ha vaccinato Natalino, voleva cambiare antenna, poi non ho capito se l'aveva comprata e la doveva mettere, oppure se la doveva ancora comprare. No, l'ha comprata, si è comprato quella come la Ghimasta si è presa. Anche lui, ma... ma lui diceva per i radiali, temeva che un'antenna con radiali potesse disturbare più di un'antenna senza radiali, ma non lo so, quello non lo so. Adesso poi con la nuova digitale terrestre non disturbano più, è lontana a millenni la frequenza. Aspetta, sta scaldando sta cosa, sa che non mi ricordo nemmeno come sia, qua non mi ricordo niente, qua è tutto a menù. Mamma mia, menu contro menu, tasti con doppia, tripla funzione, non mi ricordo come si abbassano i watt. Dovrebbero essere 10, 12, una cosa del genere. Mi devo studiare da capo il manuale. Uff. Quello che non piace a me è quello, la roba digitale. Non mi è mai piaciuta. E infatti anch'io dovendo scegliere c'è sempre il 3009. Allora, ti dico in che condizione è il 3009. C'ha due dita di polvere sopra, ricevitorino VU, stessa cosa. ricevitore HF lo stesso, tutto in disuso già era, non stavo nemmeno più ascoltando. Infatti non sapevo se voi c'eravate ancora, se c'era gente a frequenza o no. Sì, lì sono entrati anche nuovi, ce n'è uno nuovo che ci ha messo questa antenna Jane Paul, che va molto bene, c'era anche Claudio. Qui è un'antenna veramente efficace, dai, va molto bene come antenna. Ah, la J-Paul, sì, avevo sentito qualcosa, è una 7 ottavi d'onda mi pare, 7 ottavi. Come poteva essere, alla forma vabbè diversa dalla Salyut, se tu ti ricordi la Salyut, che adesso si chiama Vector, esisteva tanti anni fa, una 7 ottavi d'onda, era lunghissima, mi pare era 8 metri e fruscia, e aveva quell'anello a una certa altezza, un anello e poi di cosi che convergevano in basso, ed era una bestia di antenna, sì. No, guarda, io ti dico la verità, ero rimasto alla 5 ottavi, pensavo che fosse il massimo delle antenne la 5 ottavi, non sapevo che potessero esistere antenne superiori alla 5 ottavi. Eia, sai cos'è già? La 5 ottavi spara più verso il basso, verso l'orizzonte, per i DX magari più auspicabile, mentre la 7 ottavi ha un angolo di radiazione un po' più alto, o quantomeno c'hai due lobi di radiazione, uno un po' più basso e uno un po' più alto, però tende a sparare più in alto, un pochino più in alto. Per i DX quello influisce. Ma a voglia se li fai lo stesso di X, poi con il fenomeno di riflessione tutto, non, problemi non ce ne dovrebbero essere, dai. Ma infatti, dice che anche la ricezione è molto superiore, perché Claudio ce li ha tutti e due, c'ha la Mantov e c'ha quella lì, e le ha fatti i paragoni e ha detto che è molto più forte anche come segnali di ricezione e di trasmissione. Sì, racconta che è anche un'antenna nuova, cioè nuova proprio ai materiali, c'è il rivestimento in alluminio, ma scusa, come si chiama? L'anticorodal, dai, quindi non è ossidata col tempo, sai, perché le Mantova, anche se le lucidi, sì, le stai lucidando, però stai portando l'alluminio nudo, senza rivestimento anticorrosione, anti tutto, alla fine diventano poi, dopo un po' di tempo, tra umidità e cose nere, un po' scure, no? Si ossida di più l'alluminio, senza quel trattamento che li fanno di fabbrica, capito già? Lo so, ma basta fare degli accorgimenti all'alluminio, basta che li passi la vaselina in tutta l'antenna. Io non gliene ho messo la verità, però l'ho abbastanza... l'abbiamo fatta come si deve, schermata bene, isolata, eccetera. Sì, infatti, se si piazza bene, isolando tutto quello, stagnando tutto quello esposto radiale, se no bisogna stare sali e scendi, una rottura di balle. Bene, qua tutto funziona. Poi, vabbè, quando ne voglia provo gli altri apparecchi, su canali liberi. A vedere se stanno uscendo i watt, se c'è la ricezione, ma vedo che non è che li faccia molto e a stare spenti, l'importante è che rimangano spenti per anni e anni, poi se sono mesi spenti non, più di tanto non li fa. E va bene, dai. Io adesso vado in farmacia, piglio un po' di roba, faccio un giretto, volevo passare a Fusaro per il disossidante, quello secco, però... Mamma mia, quel poco è caro il quel disossidante. Grazie Dio. Ecco perché è tornato il tempo bello. Ah, Claudio, hai visto? Arrivo io e torna il tempo bello. Te immagini, ciao, ben sentito. Ciao Marco, solo a te stavo aspettando per il segnale. Per il momento c'è il numero 3. Numero 3 sì, è l'affare di Roberto Quadrato, minchia cazzo, così eri a Carbonazzi e così sei qua, 9 più 30 liscio con 4 watt a rifi, cosa che già andavo più lungo per metterne 300 per arrivare con quel segnale, roba da matti. Sì, vabbè, la zona è diversa, Claudio. Aspetta, però Claudio, conta che io ho 12 watt, questo non è il 3009, se vuoi ti faccio la prova consueta con... il 3009, quindi 4 watt più il filtro, mi ruba 1 watt, quindi con i 3 watt usuali, ti faccio vedere il mio segnale solito, quello che conosci da 10 anni a questa parte. Un attimino, datemi di tempo, riprendi già. Eia, spolverali tutti e falli girare quella preghiera, che sono da troppo tempo che sono fermi. Non pensare che sia vicino a me lui, mi... non pensare che sia vicino a me lui, mi già, lui c'è una zona favorevole alla mia, infatti ti difende abbastanza bene, così lui era carbonato, la stessa cosa, uguale, precisa identica, allucinante, vabbè, io adesso sto usando la Smart Tech, il segnale lo porta molto su, ma ho visto anche con la Mantova, non è che si abbassi di molto. Va bene, va bene. Claudio, ma ti rendi conto quanto è in alto lui? Qua lo stesso arriva a 9,30 e io sono al quadrato adesso, fondo scala. Ma lui è una zona molto alta. Tu immaginati Viale Trento, tutta la salita che c'è, sino arrivare a casa è tutta la strada che devi fare praticamente. Cioè tutto gatto in farata, scendendo da casa sua. Lui è molto più in alto, la zona è alta quella lì. Ma io faccio anche la proporzione di antenne, cioè queste antenne stanno dando battaglia forte, cioè tu pensa che non Antonio Bombolo, cazzo, mi arriva a 9,20, io di qua stiamo parlando, in un buco con un'antenna alta 2 metri, cioè 9,20 arriva Antonio qua, capito? 9,20. Vabbè, se volete vi dica, evidentemente questa zona ha perso ben poco. Rieccomi. Cosa mi stai facendo vedere? Allora, prima era con 12 watt, 12, 13, facciamo 12. Allora, questo è il 3009 con 4 watt, poi c'è il famoso filtro anti-TVI che mi ruba 1 watt, quindi questi sono i 3 watt. Questa è la mia condizione solita, come avete sentito negli ultimi anni. Nudo, crudo e non ti dico l'altro termine. Guarda un po'. Quindi 3 watt utili. Ehi Marco, la 9,30 si è sceso a 9,25 abbondante, quasi 27, diciamo, pochissimo si è sceso, hai un segnalone, veramente, hai un segnalone, non so come mi ascolti a me, però hai un segnalone. Qua si è sceso, ma tu sei liscio presumo adesso, no? C'è proprio nature, prima sei di 9,20 da liscio tranquillo, adesso sei 9,15. Quando invece c'era l'aiutino era un 9,25, se l'aiutino era maggiore era anche un quasi 9,30, dai. Questo Smitter è secco e questo è il 3009, va bene. Gianni, riprendi. Ehi, aspetta che spengo lo stereo, che c'avevo lo stereo attaccato, per sbaglio. Mi sto spostando perché qua non mi sono portato il borsello con i documenti e tutto pieno di polizia e carabinieri che ci guidano. E se mi chiedono qualche cosa, non ho i documenti perché mi sono dimenticato il borsello a casa. Dai, io vi lascio che devo fare cose. Ciao Marco, un piacere mi ha fatto riascoltarti dopo tanto. Noi la sera siamo un po' da una parte all'altra con Roberto, con Gianfranco, cioè Roberto è diventato l'animatore, quindi ci stiamo un po' abituando a farci due chiacchiere anche in VLU. Qua a volte ci sono, a volte no, quindi fatti sentire, ok? No, io sto andando con il 140 e 10 watt modulati, praticamente proprio 10 watt, non ho nessun aiutino, quindi va più che bene. Ok, vi saluto, so che stai uscendo, io sto rientrando adesso, ero appunto a fare una visita con mia moglie. Anche noi siamo passati in farmacia. Dai, saluto Gianni, saluto anche chiunque sia qua sul 10, ci sentiamo stasera se coincide, se no alle prossime. Ciao Marco Lì. Ciao Claudio. Ciao Claudio, ma mi ha fatto piacere sentirti dopo un bel po', io ho tutto impolverato, tutto in stato di abbandono, ricevitori compresi, e purtroppo se c'è un calo. Sì, di Roberto ho saputo che ha dato l'esame passato, sono abbastanza, no, abbastanza, veramente contento, perché lui poi sa come si appassiona, no, di tutta questa materia radio. Io, a me me ne è passata abbastanza la gana, quindi non, però per lui sono veramente contento, sicuramente sperimenterà parecchio, dai, quando avrà un po' conoscerà tutte le tecniche. Ok. ciao Claudio, ci sentiamo le prossime, quindi qua sì, arrivi ottimamente, adesso non so esattamente dove sia il punto tuo di trasmissione, però sì, sicuramente se dai qualcosina in più è comunque notevole il segnale. Gianni, tu stai rientrando a casa, interrogativo. No, mi sono spostato perché te l'ho detto, mi sono dimenticato i documenti a casa, se me li chiedo mi rompo le balle. Zona residenziale, Marco, zona residenziale, Serra Secca Alta, attraverso Monte Bianchino. Il cacchio, ma gira sei più in alto o no? Forse o forse al pari sei come altezza di antenna rispetto al tetto di Carbonazzi? Sì, ho avuto un po' la sfiga che ho una collinetta dove è stata costruita la casa, però siamo a 400 metri di altezza quasi. Carbonazzi ero intorno ai 280-270, qua siamo a 385. Allora ancora più in alto, dai, dico, parlo di altezza di antenna, là, perché lì il palazzo era bello alto, più palo e tutto, e vabbè, non ti puoi aumentare, dai. Poi ho sentito dall'antenna, di quella marca che non ricordo mai, quella è una bella bestia, 8 metri e abbondanti di antenna. Sì, poi, Claudio, se ti ricordi, mi l'avevo detto anche a Gianni, una volta esisteva la Saliut, e adesso si chiama Vector 4000, che era lo stesso, una 7 ottavi d'onda, aveva quel cerchietto a una certa altezza, e poi di così che si fissavano alla base dell'antenna, ed era una J-Pole lo stesso, una J-Pole 7 ottavi, ed era un bestione di antenna. Sì, questa è una J-Pole 7 ottavi, ma tieni conto che io ce l'ho attaccata al muretto del giardino ancora, non ho fatto niente, anche le VLU, le HF, ho preso una 280, quasi 300 euro, una multibanda della PKW, 5 bande, che dovrò montare, la dovremo assemblare con Marco. Sono ancora in fase di costruzione perché non ho pensato alle radio, ma ho pensato a sistemarmi tutte le altre cose che sono venute veramente una cannonata. Quindi ci vorrà del tempo, ma questa antenna mi dà delle ottime soddisfazioni, veramente è a un metro e mezzo da terra, quindi dovrà salire ancora 6, 7 metri, 8 metri, non lo so, più 8 di antenna, insomma, vedremo quest'estate, per il momento va bene così. Ciao Marco, un abbraccio, ciao anche a Gianni, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Claudio, la mia antenna va sempre bene, sì. Sì, sì, alla grande. Quanto ti arrivo adesso? 747. 9 più 35, la massa di Nevaria. va bene, avanti Marco. Hai messo in macchina? Ehi. Hai fatto bene, almeno te lo sfrutti. 9.35 sì, già. Ti ricordo, se sei al quadrato siamo un po' più vicini, là. Comunque va bene. Dai, riprendi con Marco, un abbraccio a tutti e due, ci sentiamo stasera, ciao. Ciao, ciao, avanti Marco. Ciao Claudio, ci sentiamo quando capita, dai, io purtroppo poi a metà serata noi mangiamo, sapete com'è, non fa stare in radio, viene male, è un po' così, è stato un calo notevole dell'interesse, mi sto dedicando più altro, sto cercando di uscire più quando si può, eccetera. Sì, già, il segnale tuo è ottimo qua, 9 più 20 circa, prima eri un tipo 9-10 giù di lì, dai. Scappa, adesso vado a farmi un giretto in macchina, questa non chiama, ma fa Napoli, ahoia, andava via, sono un po' sballato in giro. Io adesso, siccome poi come cala il sole fa ancora più freddo, sono in scooter, mi faccio queste commissioni adesso finché c'è ancora il sole, e poi la sbatto in garage, così me ne torno a casa, si pranza e fatta la serata, dai. Poi con calma più tardi mi provo tutte le altre radio ammassate, se tu vedi quell'armadio è una cosa invivibile, già invivibile, proprio la follia umana con gli acquisti folli, tutta roba poi in disuso, capito? La Baobao, Baracchini. Sì, ti è venuta anche a te la smania di comprare? No, c'era prima, poi c'è, cioè, inutile accumulare roba, come ha detto qualcuno, basta un baracchino, cioè per parlare a Sassari basta un baracchino che sia completo, che abbia bande laterali, che ne so, canali alfa, canali alti, tutto il resto è veramente follia umana, mai più, mai più. Io ti dico una cosa, almeno due bisogna averne, perché se si rompe uno c'è l'altro. Sì, magari perché entra assiduamente già, però per me che per una volta ogni morte di pappa ce n'è da pranzo. E vabbè, 3.900 sempre a posto, sì. Devi vedere la polvere che c'è sopra, proprio li ho lasciati quasi volontariamente in stato di abbandono. Figurati quanto ne avevo voglia, vabbè. Dunque, l'importante è che l'antenna funzioni. Poi, non so qua se la devono smantellare, che devono fare tutto il, come che si dice, il 110%. Non so se debbano smantellare anche il terrazzo, boh, niente so. No, per il palazzo ti danno l'80, non te lo danno il 110 per il palazzo. 110 è per il resto, per la casa, per quando devi ristrutturare casa all'interno, cambiare cavi elettrici, eccetera, eccetera. Ma l'80% è sul cappotto del palazzo, là. Sì, bravo, già, il cappotto, esatto. Poi vabbè, tutta roba che sa l'amministratore, io non, più di tanto non mi interessa. Vabbè, poi vorrebbero mettere i pannelli solari, invece il padrone del terrazzo, anzi tutti e due i proprietari non hanno voluto sapere di avere il terrazzo invaso dai pannelli solari, allora quello niente. Che non esagerino però con questa modernità. Hanno parlato di cosette strane, non so mai cosa roba è. Io adesso sono fermo qua, dato, tanto se ne sono tutti andati. Ti avevano troppa curiosità, stavo guardando. Ah, vigili urbani? E allora? Come vedono antenne. Oia, chissà se sanno anche che non esiste più concessione, licenza, nulla, vabbè, licenza, concessione, dai, bollettino, niente, libero uso. Come che siano giocattoli, cioè, sembra quasi un declassamento della 27, così la vedevo io già. In effetti è così, non siamo più tutelati da nessuno, se ti fermano che non sanno, ti devi portare la legge appresso, perché sennò se non lo sanno, ti devi far leggere quello che c'è scritto sulla gazzetta ufficiale, eccetera, eccetera, perché se no ti fanno passare casini, ti rompono le scatole. Però come la legge non ammette ignoranza, però come la dobbiamo sapere noi lo dobbiamo sapere loro, e dovrebbero essere loro a farla rispettare. Sì, comunque c'è una cartelletta con addirittura avevo all'epoca il certificato, non certificato, il coso di, porca miseria, quella roba europea, di conformità, certificato di conformità, me l'ero portato in macchina, classificato e tutto nella cartella. E anch'io ce l'avevo, ce l'ho tuttora, c'ho anche l'ultima tassa pagata, lo sai che te lo chiedo. Concessione, tutto quanto, tutto appresso, però in effetti non vale un cavolo, perché non ci vuole più, quindi non devi manco presentare. Una volta a me una pattuglia mi ha fermato, avevo appuntamento al quadrato con degli amici, devo andare al bar, mi chiamano, ma dove sei, che ti ho messo di sì, e mi ha detto se mi hanno fermato, guarda, mi hanno fermato, se no mi stanno parlando un attimino, e mi hanno chiesto cosa ci voleva per il baracchino, che se lo voleva prendere anche questo poliziotto, e gli ho detto vuol vedere la concessione, no non c'è problema, non ci sono problemi, che cosa ci vuole, l'ho detto cosa ci voleva, ma detto, se è così facile me lo prendo, perché mi piace, a me mi piace stare in radio. E beh, ricorda un po' l'attività che fanno loro anche via radio con le pattuglie, no? È una cosa bella comunque la radio. Sempre, io mi ricordo, io quando non sono più entrato io c'era ancora la portante, io spero che la cosa si sia appianata, perché veramente non va bene, dai. Bene, già, io stacco, poi mi provo gli altri baracconi e poi li risbatto nell'armadio dove è giusto che siano. Ok, già, ho fatto piacere sentirti dopo tanto, e sentiamo quando capiterà, alle prossime, ok? Ciao, buona serata, ciao anche agli ascoltoni, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ciao, ci sentiamo. È stato un grande piacere ascoltarti, dai. Ero un po' preoccupato, non è che la mamma sta male o qualche cosa del genere, ero preoccupato per quello. E diciamo che sono alti e bassi già, ci sono giornate che proprio non riesco a alzarmi dal letto dalla stanchezza, è come il cuore stanco, come il muscolo cardiaco stanco, esausto, non si riesce a venirne a capo di questa storia. E poi i piccoli acciacchi dell'età, la glicemia che piano piano subdolamente tende a salire sempre di più, perché io sto sempre facendo uso e abusi di dolci, è più forte di me, ho ricominciato come prima e peggio di prima forse. Che te devo dire già, di qualcosa bisogna promuovere. Con questo periodo, poi un bel periodo stiamo passando da 2 anni a questa parte, per carità, guarda. Ok, già, stacco, qualità esecutivo, ci sentiamo le prossime, ciao, ciao, ciao. Ciao Marco, ciao, buona serata, ciao, ciao, fatti sentire. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno, cambio. Olla, olla la cipolla, la cipolla, la cipolla. Ora, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attenzione, canale 10, cambio. Hola, hola, hola. Attenzione, binario 10, cambio basso. Vabbè, già. Ma che stai facendo con Fruscio? Io? Vabbè, dove sei? A casa tua? Sì, da mamma. Sono con il Covid già. Ah? Sono con il Covid. Ma chi sei, Luca? Chi sono? Ah, io sono... non sono a casa, non sono al quadrato. Ah, ho capito. Ascolto bene, Covid. Sì. Sto aspettando a vedere l'ora a prendere Elena, perché ha avuto un contrattempo, devo andare alle 4 a prenderla, invece la signora non si vuole alzare dal letto e praticamente deve restare lì perché non vuole che si alzi da sola, capito? No, hai capito, cosa ti ho detto, c'ho il Covid. Il Covid c'hai? Sì, è positivo, sono risultato. Visto. Se hanno preso anche Manuela, Marco, Liliana, tutti qua. Adesso mi è passata a loro. Quanti giorni sono stati? Una settimana, lui. Vabbè. Vede di ripigliato il gachirugo che si è andato a cantare. Sicuramente. Le mascherine ci vogliono, un casino. Non ce l'avevo la maschera, vabbè, non la stavamo usando. Quello sì. Anche Marina? No, Marina è negativa invece. Vabbè, almeno quello, dai. Quindi devi stare a casa adesso. Sì, qua da mamma dove stai, quando voglio uscire fuori mi devo mettere la mascherina. Tu hai fatto i vaccini, due ne hai fatto? 3. E te mi dai rubate il cuffio? No. Tu pensa che io sono uscito con Manuela la sera che ce l'aveva e non me lo son preso. Quello così già, quello così. E ho avuto fortuna, dai. Perché siamo andati a cambiare un disco, mi hanno regalato un disco a Natale di quelli in vinile, perché adesso li stanno di nuovo facendo, no? Sanno che mi piace, lo mi hanno regalato, però io ce l'avevo già quelle canzoni, c'avevo un altro disco dove c'erano anche quelle canzoni lì. Ho detto, Manuè, non vi offendete, però io queste canzoni ce le ho già. E l'abbiamo chiamato insieme a cambiare le messaggerie, quindi eravamo in macchina insieme e tutto quanto. Siamo stati un bel po' insieme perché dovevo aspettare la mica. Vista, per carità, va. Vabbè. Vabbè. Un casino. Aspetta già un attimo, devo entrare in bagno, se mi aspetta che mi... E anche ti prendo un po' a scarichette, arrivo. Devo subito mettere anche la maschera che c'è mamma fuori. E adesso speriamo non lo contagi anche a loro. No, no, aspetta, arrivo su. Statene in camera tua, non si sci. E io dovevo portarle anche la spesa a casa, tutto quanto, perché non potevano uscire loro. Lucrezia, attenzione al contagio al baracchino. Attenzione, canale 10, cambia. Ora, attenzione, binario 10, cambio, grazie. Quanti 10? Buonasera. Buonasera Carlo da questa parte. Ciao Carlo, Gianni doppio rum, avanti. Gianni, buonasera. Come va? Io mi sono rientrato adesso perché ero giù facendo qualcosina per il condominio. Ma che voi il palazzo dovete fare? Eh sì, dovremmo farlo, ma avevamo un altro problema col portone che non si chiudeva, quindi c'era l'operaio sostituendo la molla chiudi portone e poi qualche altro problemino perché c'era l'amministratore, quindi mi avevano chiamato giù, sono salito adesso. Cos'è sì, caposcala? Diciamo che praticamente qua sono una sorta di factotum, quando ci sono problemi vari sempre devo intervenire io perché la maggior parte sono tutti signori anziani, capito, chi abita qua. E se non le faccio io, loro chiamano e i manutentori ti fanno pagare un botto di soldi. Infatti. Come sta arrivando dalla macchina? Oh, Carlo. Ah, sei in macchina, Gianni? Macchina sono, sì. Qua fondo scala da me, fondo scala, radio 5 fondo scala, 9 più 50 con picchi positivi. Sono a quadrato, non sono a casa, non sono vicino a casa, sono a quadrato. E allora in linea d'aria sei vicino a casa mia. Sto facendo orario perché devo prendere la mia compagna, ma non ha finito di lavorare, ha avuto un contrattempo e quindi devo aspettare che mi chiami. Mi sono messo con la radio per passare un po' il tempo. Capito, che antenna c'hai sull'auto? Turbo 2001. Base magnetica? K. Ho capito, sì sì. No, stai uscendo molto bene qua, senza nessun problema. Infatti pensavo fossi a casa io. No. Vabbè, c'ho anche un bel apparecchio, dai. Vanno molto bene questi apparecchi. Sono apparecchi americani. Cosa sono presi dentro? No, il Magnum. Il Magnum S980. Ah, sì, lo conosco. Bella radio quella. C'ho il microfono normale, non c'ho amplificato. Lo stesso, sto usando la radio con un microfono normale. Ha una regolazione sulla radio, capito? C'è per amplificare un po' il microfono, ma poca roba, capito? Non è un vero e proprio microfono amplificato questo che sto usando. È una specie di compressore, un top down. Esatto. Però già va bene, finché esco bene con questo non ne sto cambiando, capito? No, io vabbè, c'ho una sorta di apparecchi ma in vari anni, cioè io ci sono una vita, capito? Mi sono 40 anni frequento. Io non ci sono 40, ma forse qualche anno in più, però poi avevo mollato tutto, capito? Non mi era rimasto più niente, perché io modulavo prima una ragazza intorno ai 20 anni da un altro QTH, capito? Quindi avevo sia in macchina che a casa e quindi altre zone, però Sassari era sempre un problema arrivarci. Poi dal 93 che abito qua mi ero trasferito, ma non avevo più niente, però più o meno un po' di radioascolto lo facevo, capito, e la passione della radio c'era. Alla fine poi mi sono deciso, ho detto mi sa che sul tetto salgo, mi metto un'antenna e così ho fatto. Adesso sono già un 3-4 mesi qua con la radio. Buonasera, la torre di controllo. Si è partita la grande. Ciao Claudio di nuovo. Buonasera alla torre di controllo, mamma mia. Claudio, buonasera. Oramai la torre di controllo sei tu, 9 più 40, mamma di Durchi, 9 più 40. Arrivi un attacco in più di Roberto, mamma mia come sto. Roberto non l'ho più sentito in radio, forse perché io stavo facendo turni di sera, stavo finendo tardi, quindi poco tempo mi stava rimanendo per modulare, così come non ho sentito più Giulio, è da parecchio che non lo sento. Non lo so, non lo so, Giulio c'ha alti e bassi anche lui, evidentemente altre cose da fare. No, Roberto siamo tutte le sere noi in radio, però ci stiamo spostando in 2,70 m, io, lui, Gianfranco, Marco, insomma un po' di radioamatori che abbiamo necessità anche di fare radio lì, purtroppo. Comunque già c'è Roberto. È un segnalone allucinante, te la giochi con Claudio Di Muro, perché anche Claudio arriva a 9 più 40 qua, ce l'ho davanti, mentre prima non lo vedevo, adesso lo vedo, e quindi te la giochi con lui, però tu sei in città, caspita, e sei per me il numero uno in assoluto. Nessuno ti può dare fastidio, penso anche fuori, perché lui è fortissimo, anche non fa più 40 a Muros, quindi va bene, complimenti, hai fatto uno verso Ocla, l'ora, e praticamente io ho un cubo telescopico, però ho aggiunto la parte più grossa sotto e ho infilato tutto quello che avevo poi dentro quello nuovo. La base è un tubo di spesso 3 mm ed è alto 2,5 metri, e poi dentro c'è l'altro, praticamente sopra il tettuccio sono a oltre 2 metri, dal piano del tetto sono più di 5, però c'è una sorta di casettina, capito? E proprio da quel tettuccio sono oltre i 2,5 metri. Ho capito, tipo la cabina dell'ascensore dovrebbe essere, no? Ma quella lavora anche così a 2 metri, anche io ce l'ho a 2 metri. Una domanda ti volevo fare, Carlo. Hai riscontrato quel maestrale forte, come si è comportata? Bene? Ho visto che oscillava un pochettino solo dalla parte del vento, però poi si è rimessa dritta dritta come è finito il vento, capito? Eppure sono esposto qua perché è tutto aperto. Per adesso è lì bella dritta, e finché dura la lascio qua. No, è già dura, ne ho preso io. Io la prima ce l'avevo quasi 2 mesi, poi l'ho tolta, l'ho mandata a questo di Cagliari, a me mi è arrivata nuova, l'ho arrivata, l'ho piazzata, e ho preso questa maestralata in pieno, ma non ti dico, va veramente, sì, anche la mia, si piega leggermente la punta, però non le fa niente, tiene bene perché c'ha la doppia antenna attaccata, capito, quindi è molto molto robusta. Tranquillo, tranquillo, non so se ti hai visto il video di YouTube, l'ha messo uno, proprio le caratteristiche del vento, regge molto, molto bene, non flette, oscilla come la matto, perché la matto la mia oscilla, anzi ti dico l'altro giorno che c'era il maestrale, oscillava più la Mantova, forse perché è più alta rispetto a quella, oscillava più la Mantova, perché la Mantova è a 6 metri circa, mentre questa è intorno a 2 metri e mezzo, neanche 3. Avanti Giacomo, stavi dicendo? Ecco. È stata notarla e oscilla solo, non si piega come ti lascia di zizzo, oscilla appena appena la punta e non si muove più di tanto. Oscillare devo, non c'era l'alluminio, è nato così, deve oscillare l'antenna, è da che mondo è mondo, ma una è oscillare, l'altra è piegarsi a 45 gradi, alla fine piega oggi, piega domani, si spezza, non c'è da fare, mi si è spezzata la 510 a me Carbonazzi, che è lo stesso materiale, eppure era a 5 metri, quanto era? 5 metri 10, una cosa del genere, una spezzata sotto. Va bene, avanti Carlo, riprendi. Ecco. Avanti Tatalino, buonasera. Buonasera a tutti, ben sentiti, Natalino Alfa 1 qua da questa parte. Se non ce lo dicevi non lo sapevamo, lo sai, brutto cuocuomane, hai visto il tuo socio cuocuomane, che ha preso il virus? Sono cose che accadono purtroppo, se non stai attento te lo becchi, sì, e cosa puoi fare? Io ero all'ospedale stamattina lo stesso, a fare una visita, già non ci va poco questi visiti, se mi rompo le balle non posso più nulla, andiamo come si cavano. Natalino, attualmente ho appuntato mia moglie all'oculistica, quindi non te ne dico, non sono uscito ancora, ero seduto lì come un tomacco, ma serve saggendi, vendi, abbedendi internet, ammazzando il tempo, lì all'oculistica perché c'è questa visita che deve presentare entro fine gennaio la domanda per appunto la cosa della pensione, le hanno chiesta e quindi siamo tutti incasinati. E vabbè, anche qua non siamo messi bene, l'aria è a casa, ma anche lei con lo stesso problema, io l'ho passata, adesso sono negativo, mia moglie ha fatto il tampone, fortunatamente negativa, ma l'aria al secondo tampone è ancora positivo, con 3 vaccini, anche Luca ha 3 vaccini, e vabbè. Carlo, il cambio a te, fai girare tu. No Natalino, buonasera. Ben sentito, vai a fare le visite che ci vogliono quelle, se no guai. Sì, tanto, cosa? Quella dell'oculistica per esempio devo andare a pagamento, se no non me ne fanno, dimmi tu. Idem, ma a settembre dal CUP? No, non hanno proprio date. quando ho telefonato io non avevano date, e a me mi servì a maggio, perché devo portare quella cardiologica e quella della vista alla diabetologa, quindi devo andare a pagamento by frutta, e se no tutti gli esami che mi ha fatto fare questo cardiologo, pure a volte mi ha pigliato e ci manda. Vabbè, cosa vuoi ti dica? Purtroppo è così, io lo stesso, mia moglie ha fatto qualche mese fa un piccolo intervento in chirurgia plastica e gli hanno, prima dell'intervento gli hanno richiesto l'elettrocardiogramma e le analisi, e è andata tramite CAP e glielo davano a maggio mai, esami del sangue idem, e siccome lo doveva fare entro subito praticamente questo intervento perché era urgente, allora ci siamo rivolti all'AS e le analisi ce le ha fatte subito nella giornata e ci ha mandato l'esito via mail, e poi l'elettrocardiogramma, mi sono pagato il cardiologo privato, e così ha fatto in un attimo. Purtroppo è così, se ti servono le cose urgenti o aspetti i tempi biblici che hanno loro, il sistema di prenotazione CAF, oppure devi andare a pagamento, se no non c'è altra soluzione. Sì, lo so, oggi manco mi risponde il CUP. Sono tutto il giorno telefonando, sempre occupato. Siano attenti a non rompermi le scatole che non ci vado di persona, perché io giro di testa facilmente. Oggi ci è mancato poco che picchiassi a quello stronzo del cardiologo. Chi sono i stronzi? Non è un dottore, deve seguire un po' chi ti agnone di rapigliare dalla laurea. E come mai ti ha sgridato Natali? Dice che c'ho poco da campare perché sto fumando, capito? Praticamente sono in una situazione disastrosa, già me ne hanno prescritto poco di esami. Ah, vai, io rivozzo. Sono dal 2007 in questa situazione, non so che ancora buccio, ultima la rivendia. Adesso te ne dico una, veloce, veloce. Mia suocera compie 91 anni a maggio. Si fuma un pacchetto di MS classiche al giorno. 22 anni fa ha avuto un infarto, non ha mai smesso di fumare. 9 anni fa gli hanno applicato 2 bypass coronarici, non ha mai smesso di fumare, gli hanno fatto tutte e due le cataratte agli occhi, andate bene, e non ha mai smesso di fumare, gli hanno sempre detto lei non deve fumare, e ha 91 anni quasi e sta sempre fumando un pacchetto di sigarette al giorno. Ah, vabbè, cosa vuoi dire? Io pure ho avuto un infarto nel 2007, però io non mi hanno fatto né bypass né nulla, mi hanno messo solo uno stent e boh. E Ghiccio mi ha fatto ricandare, mi ha detto poco di cosa. Adesso la prossima volta non sarò più così calmo. Rubiglio Barovavero di Rugami, c'è di cui da terra mentre una iatturina. Da chi? No, lo fanno per farti spaventare, perché così almeno ti spaventi e fai tutti gli esami, stai attento. Anche con me, diabetologo, a volte scorbutico, l'ultima volta era tranquillo, ma mi ha migliorato questo e quell'altro, però ancora deve andarci sotto, vabbè, non è mai contento. Però le altre volte mi diceva, lei si sta avvicinando alla morte, non so che cosa, storie così, capito? A me giravo di catto così gentile, sempre, catta. Invece Ghiccio di Linan mi ha trattato come un animale, ma come un animale lo tratto, vi dico la faccia la cosa, vedrai tu. E non si permetta mai più di voto, ricudo casa a terra, mi vedrai tu. Io la visita oculistica a Lina mi scemo, l'ho rifiutata, non ci sono voluto andare, perché a Lina c'è sempre un verifica da fare, un casino. Ma io l'ho fatta una visita cardiologica come tutte quelle che ho fatto, non ha arrivato una tragedia, non ha arrivato, mi hanno detto solo di non fumare, la colpa è mia se sto fumando, no? Cazzo, ma io mi ha pigliato a voi, me l'ha detto tutti i rigurori. Cazzo, adesso devo portare le cartelle cliniche di quando di quando ho avuto l'infarto, tutta la documentazione, vabbè. Già per la buccemmi, analisi di Rusanco, cos'è che non mi ha prescritto a fare? E adesso sto combattendo con il CUP perché non mi rispondono questi. Non so come definirli, non penso che possano essere sempre occupati. Quando mai, cazzo, quando telefoneggio non vedo un buco a rispondimi? Te lo do io il numero, devi chiamare a Cagliari. 070 27 64 24, quello lì il numero è, oppure 1533. Ti ho chiamato io e mi hanno risposto stamattina. Pensavo che te devi attendere, lo so, ci vuole tempo, e mi hanno risposto. Però purtroppo il medico mi ha fatto l'impegnativa non esente, se faccio l'esenzione io. Faccio domani richiamo, anche adesso posso chiamare, mi prendo l'appuntamento. E chiama. So che tutta la dici, si chiede di telefonare, nulla. Adesso chiamo, aspetta. Chiama a vedere se ti rispondono, così fai più bella faccia di me. E se vuoi fare, adesso la dico la di me. Comunque buonasera, ce l'ho prima con Gianni, mi sono spostato un attimo. Prenotazioni sanitarie della regione Sardegna, ci ricordiamo. Allora, poi non mi rispondo, ti faccio sentire. A Luca. A me, forse a quelli che hanno il Covid, rispondono. Chiamate più prete che è meglio. Chiamate per il Covid che vi manda mia sorella, Ma chi quella pelosa? Muove la demo. Allora, Tari, ce l'hai conosciuta tu. Ma quella ti passa tutto. Ti fai i due massaggi. Oh yeah. Manda a prendere il pane, che mi devo fare il pane a stella. Attenzione, Eugenio, mi ascolti, buonasera. Ciao Gianni, buonasera anche a te, buonasera che ti ascolto, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, non vi trascurate che la vita è bella, tanto purtroppo bisogna morire, quindi fregatevene. Allo credo, Eugenio. Senti, Natalia, sta chiamando, sì. Luca, entra da tutte le parti, perché mia moglie non ha risposto stamattina proprio? Ho chiamato, mi ha risposto, solo che ho visto che non c'era l'esenzione, è un po' strano, io ce l'ho, ho 02, e allora niente, abbiamo cancellato tutto, infatti poi mi ha chiamato il medico, ha detto passa così così, e me l'ha mandata tramite mail, ha fatto la chiamata e prendo l'appuntamento, devo prendere l'appuntamento otorino laringoiatrica. No, Torino è in ti hanno ingoiato. Torino di tirare in cuzzillo. Vabbè, Nutella. E allora, buonasera a tutti, buonasera. Non veniva nessuno. È un casino, questi centri è un casino. Chiamare, bisogna andare a pagare. E mentre occupati, ci scusiamo e la preghiamo di richiamare più tardi, tenendo a portata di mano tessera sanitaria e impegnativa. Le ricordiamo che il servizio è aperto dalle 8 alle 18 da lunedì al venerdì. Salve, buonasera. Ascolti, dovrei prendere un appuntamento, mi sente? Aspetta un attimo. Ah, Luca, riposo subito. Tutto il giorno so. Se una salita il telefono io, dai, che già mi rispondo a me. Mi hanno anche sganciato adesso. Allora, non dovrò telefonare. Cazzo di posto, vuol dire un telefono. Ti faccio morire, figlio, ti faccio morire. Allora, come va lo di radio, bene? Bomba, qua mi arrivi come se fossi giù, capito, qua, fondo scala, radio 5, ottima, chiara chiara, bella e potente. Mi fa ridere Claudio a me, mi fa ridere. Mi stamattina ho fatto un posto in pepe alla T250, ho avuto un culo a 110 euro spedito, cazzo. Un Yaguru, così mi completo la linea 140 Chihuahua, la radio che ci abbiamo uguale, così c'ho tutto, il correttore automatico di linea, alimentatore PS50, colonnina, SP430 e AT250. Ho avuto un culo, cazzo, mi hanno passato un messaggio, gli dico, ordinalo subito, cazzo, non ci sono, sto arrivando, cazzo, ho parlato di subito, abbiamo fatto il pagamento, adesso penso che oggi domani spedisca, cazzo, ma fare, 200 euro ho lottato a T250, ho trovato 110 euro spediti. Hai visto cosa vuol dire avere gli agganci tra radioamatori? C'è un culo davvero, mi piace. Un culo, a pensare che ne ho avuto due di quei altri 250, li ho sempre dati, ora non ne ho più, manco si può mai nei ginocchi, perché l'accordatore di linea del 430 del 140 automatico, è fra accordatore automatico, commutatore d'antenna a tre vie e più fa rosmetro al wattimetro sino a 200 watt. È una chiamata veramente, accorda il ferro, ho fatto schiacci il PTT da 140, lo metti in automatico, dovete una camionata, ho avuto un culo, sono contentissimo, almeno c'ho la linea completa. Tatalino, Gianni, dove sei, con chi sei? Oh, ma c'è qualcuno che sta chiamando, Carlo, tu che sei in zona ottimale, guarda chi è. Da Platamona, buonasera Carlo, c'è Claudio, Natalino, c'è Eugenio, c'è Luca, avanti Claudio se lo senti. Sì che lo sento, ciao Giovanni, buonasera, non ti dico ben ascoltato, sei un po' bassino oggi, come mai? Ti ho sentito in altre occasioni, ti ho sentito molto meglio. Hai visto poi l'appuntamento? La segui tu? Ma comunque con la dottoressa? Sì. No, ora con la dottoressa, con il CUP. Se te l'ho detto anche mia moglie stamattina ci ha parlato per altre cose, perché deve fare un'altra visita, quindi si era prenotata direttamente stamattina, ora l'ha fatta alle 2:30 oggi, all'oculistica, capito? Quindi ci ha parlato, Natalino non riesce a parlare, non ho capito perché. Pila Natalino, con cuore. Giovanni non lo sento. Giovanni, mi ascolti? Poi non ne ho un'altra di visita, però no, allora ce l'ho in via Torres, mi pare, lì. Quella è la vista chirurgica, alta, dermatologica. Sì, in via Torres, sì. Sono andato anch'io. Eugenio, ti ha risposto, aspetta un attimo, prova Eugenio, ti ha risposto, ha detto che ti sente. Giovanni, stai rispondendo? Dammi tu, ti sento forte e chiaro. Niente, non lo sento. Cazzo, da Bratamoco, non lo senti da Bratamoco? Niente, zero. Proprio non lo sento. Niente, zero. Ai ai ai, genio, qualcosa dobbiamo fare, Dobbiamo fare qualcosa. Cosa vuoi dire? Ma lui non è proprio a Platanona, a quanto ho capito. Dove sei Giovanni? Al terzo pettine, al quarto pettine, dove sei? Dove? Ah, ma è Giosci, dove sono i cavalli, quindi sei a Platanona, oggi. Platanona. Oh Giovanni, ma alla fine della Budi Budi è quel maneggio là? Ma il maneggio di mio zio acquisito, diciamo, là. Sei lì veramente. Però non lo sento. Deve avere un antennino di macchina, no? Oh, ciao Fabri. Sì, c'è un'antenna di macchina. Ah, un'antenna di macchina, facciamo vedere la macchina dal camion, boh. E allora Fabri, tutto bene? Sì, tutto bene, perché arriva basso, mi quasi incomprensibile. Anche qua è segnale 1, proprio mi muovo appena l'arrivo dello Smither. E questo è anche abbastanza selettivo, alle 4:30. Giovanni, ma che antenna c'hai di macchina? Ah, vedi Fabri, è sul camion. Guarda il segnale di Carlo con l'antenna che c'ho io, con la Smart Tech. Vai Carlo per Fabrizio. Sera Fabrizio, ben sentito. Controlla se ti arrivo più forte di prima adesso. Il segnale non me lo ricordo di prima, la verità. 9, diciamo fai picchi di 9:40. Prima ero più basso, zona via l'Italia, tu sei, vero? Più o meno sì. E arrivavo Santiago 9 e qualcosina, ma non così alto. E vabbè, che antenna avevi prima, una mezz'onda? Sì, esatto, avevo un dipolo. Adesso ho messo la J-Pol della Smartec. No, ma arrivi fortissimo adesso. Ah, hai visto Carlo, è 9:40 anche qua, è il numero 1. Arriva anche più forte di Roberto. Vabbè, quella antenna non c'è tutt'altra, alta, ne vediamo molto bene. Io sono Renato con questa antenna prevista e silenziosa che Carlo. Poco QRM, va bene. E beh Fabri, chi sia a casa? Niente tabacco? Sto sempre lavorando, oggi sono libero.